9 in punto, la versione di Oscar. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no, tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, tu no, vengo anch'io, no, tu no, vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no? Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 6 di settembre, un augurio caloroso a tutti coloro che si chiamano Zaccaria. Oggi è una giornata importante fondamentalmente per i mercati europei e quindi per le ragioni per cui cominciamo sempre con queste due canzoncine, perché tutti siamo in attesa del consiglio della Banca Centrale Europea. Oggi deve manifestarsi nei dettagli, prima nel dibattito nel Consiglio europeo, poi nelle determinazioni, ciò che verrà comunicato ai mercati, il piano di cui siamo in attesa da quando Mario Draghi settimane fa disse da Londra tutto il necessario sarà fatto per salvare l'euro. Nel frattempo in Germania fortissime reazioni, le abbiamo seguite passo passo, giorno per giorno. Ancora ieri in Germania delle frenate, trovate tutto sui giornali di stamane, e quindi ci si aspetta oggi una determinazione a intervenire sì sui titoli fino a 3 anni, come detto ieri da Draghi 2 giorni fa, mi correggo, ma senza indicazioni precise delle soglie di spread e dei quantitativi. Da una parte è peggio, dall'altra è meglio, perché non dare soglie ai mercati significa essere disposti a quantità potenzialmente illimitate, cioè potenzialmente commisurate alla gravità della volatilità degli spread. I mercati ci credono, perché gli spread stanno scendendo, sono per l'Italia poco sopra quota 400. Vedremo se in assenza di perturbazioni sui mercati mondiali nei prossimi mesi, ci sono le elezioni americane, c'è il rischio Israele, questo tragitto possa davvero portarci verso un abbassamento a inizio dell'anno prossimo da soglia 400 verso 300, in quella fascia di 200 e qualcosa che ieri diceva Banca d'Italia. Quindi oggi è una giornata essenzialmente importante per questo, ma voglio darvi qualche altra breve pillola prima di andare al tema del giorno. Il tema del giorno sono i costi e gli sprechi delle regioni. Ci arriviamo subito. Vi faccio 3 domande nel frattempo su temi che sono del giorno e che trovate sui giornali. Il primo riguarda Mediobanca, perché noi ci occupiamo spessissimo di ciò che non va nella politica, dei costi, degli sprechi, del ritardo della politica, di come rimettere in piedi l'Italia. Le mie idee le conoscete, sono su www.fermareildeclino.it e tutti i giorni su Chicago Blog, ma talvolta ci occupiamo un po' meno in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, di ciò che non funziona nel settore privato. Allora, ieri Mediobanca ha dato solidarietà al suo amministratore delegato Alberto Nagel, e la tesi che trovate sui giornali di oggi è che Alberto Nagel aveva sì firmato ai Ligresti con le proprie iniziali, la propria firma, un impegno a salvarli, a riconoscergli la manleva, però la tesi che il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha fatto proprio è che era un atto di compassione, non impegnava la banca la firma dell'amministratore delegato. Non ci siamo proprio, perdonate, lo dico con tutta la chiarezza con cui mi sentite scagliarmi contro i falli e i difetti della politica. L'amministratore delegato di Mediobanca, quando firma un pezzo di carta ai titolari del controllo di una società verso la quale quella stessa banca ha dato miliardi di crediti e sostegni negli anni, non credo che lo firmi come se firmasse un autografo da parte di un grande cantante rock a un fan, tanto per. Però questa è la regola del capitalismo italiano, del cuore del capitalismo italiano, ormai decaduto, perché io l'ho sempre difeso quando serviva ad altro, e altre erano le regole. Prima osservazione. Seconda osservazione. Ieri incontro con le parti sociali, trovate sui giornali l'ampia messa di informazioni su come il Presidente del Consiglio abbia detto che sta alle parti sociali adesso fare il più. Certo, le parti sociali, con quello che si trovano nei loro iscritti e in un paese piegato, alcuni ascoltatori ci dicono dovete continuare a parlare di disperati mai, e hanno ragione, perché la condizione delle piccole imprese sul mercato domestico piegate e piegate dallo Stato con le tasse, dai cattivi pagatori e senza impieghi bancari, resta esattamente nelle condizioni in cui erano quando mesi fa ce ne occupavamo tutti i giorni per molti mesi, anzi si sono aggravate. Ma detto questo, ammettiamo che spetti alle parti sociali, spetta il proprio, Ma è un po' singolare vedere che per reazione a quello che aveva detto il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi prima dell'incontro di ieri mattina, aveva detto qui ci andiamo a un autunno non caldo ma bollente, nel comunicato finale si dice che la produttività la dovranno fare solo le imprese praticamente. Io credo che per fare produttività, cioè per avere soldi per investire, ci vogliono solo buone relazioni industriali. E il governo ha tagliato la detassazione per i salari di produttività, tanto per dirne una. Ma ci vogliono soprattutto alcuni passi avanti verso il fatto che le imprese abbiano di che investire. E invece la condizione non è esattamente questa. Vi faccio riflettere, terzo punto, sul fatto che invece nei primi 6 e 7 mesi le entrate dello Stato, malgrado tutto vada a picco, il PIL eccetera eccetera, continuano a salire del 6,8% rispetto all'anno precedente. Tutti dicono bravo il governo, bravo, sì sì. Ogni punto che sale di entrata fiscale significa spiazzare crescita, risparmio e investimenti. Questo è il punto centrale. Fine delle tre riflessioni del giorno. Tante altre me ne verrebbero, ma non voglio levare spazio a un tema su cui vi invito a telefonare al nostro 800 24 00 24 per prenotarvi e dirvi che cosa pensate intanto di come va nella vostra regione, ai vostri occhi, l'andamento dei costi, degli sprechi, eccetera, eccetera. E oggi abbiamo un'occasione molto interessante, perché un collega che si chiama Pierfrancesco De Robertis ed è il responsabile della redazione romana del Quotidiano Nazionale, cioè il gruppo che raccoglie insieme in holding le testate di Bologna, il Resto del Carlino, di Firenze, La Nazione, di Milano, Il Giorno, ha scritto un bellissimo libro, secondo me, molto utile, perché un po' come le opere di Luca Ricolfi o come La Casta di Rizzo, mette insieme un bel po' di dati che è ovvio saranno anche pubblici, ma ogni tanto ci vuole la fatica di qualcuno che ci metta la testa e metta insieme tutti i dati pubblici per consentirci una riflessione, e lo ha fatto dedicandolo proprio alle regioni. Il titolo di questo libro è La Casta Invisibile delle Regioni, costi, sprechi e privilegi, ed è con noi appunto, e lo ringrazio del lavoro che ha fatto, un vero e proprio libro per la riflessione civile a tutti gli italiani, per Francesco De Robertis. Buongiorno. Buongiorno Oscar, grazie dei complimenti. No, no, buongiorno, no, a tutti gli ascoltatori. Non sono complimenti. Allora, tentiamo di ripercorrere, per così dire, un po' capitolo per capitolo, per dare cifre, che spetta soprattutto a te dare, la radiografia che hai compiuto su le regioni italiane. Le regioni pesano per 175 miliardi sul bilancio di spesa nazionale, ci si concentra di solito sulle province, abbiamo le province eccetera eccetera, abbiamo spesso parlato dei comuni, a cominciare dal comune di Alessandria Fallito e così via, perché è il livello di amministrazione più vicino ai cittadini. Ai cittadini è un po' più complicato ovviamente capire bene, nelle regioni in cui vivono, come stanno andando le cose nella loro regione, e soprattutto compararle rispetto alle regioni che offrono servizi peggiori o migliori, talora migliori, con costi molto più compressi. Ed è esattamente questo, secondo me, il merito essenziale del tuo libro. Allora, il primo capitolo è dedicato ai consigli regionali. Quanto costano i consigli regionali? E tu giustamente scrivi: sui 175 miliardi il costo dei consigli, intesi come strutture, i parlamentini regionali. Certo, siamo a praticamente un centesimo dei 175, però insomma c'è di che riflettere, perché ci sono regioni come la Lombardia in cui gli euro pro capite del costo del consiglio regionale lombardo è 7,77 euro pro capite, ci sono regioni come la Sardegna in cui siamo a 50,87 euro pro capite, ci sono regioni come la Valle d'Aosta, che paga il peso ovviamente di essere la più piccola, in cui siamo a 124 euro. Allora, qualche considerazione di libertà su chi sono i migliori e i peggiori, cominciando su questo. Quanto costano i consigli regionali? Io ricordo a chi ci ascolta nel Lazio, che è una regione da questo punto di vista che costicchia, insomma il consiglio costa 18,15 euro pro capite, il Lazio costa in generale molto, non è certo in testa alle graduatorie da tutti i punti di vista, che trovano oggi sul Messaggero un'intervista a pagina intera del presidente della regione Lazio, Polverini, che esattamente si scaglia contro il consiglio regionale del Lazio. Dice Polverini contro il consiglio, sto leggendo il titolo, basta sprechi o taglio io, il lassismo dei partiti vanifica i risultati della giunta. Allora, facciamo una graduatoria intanto, cominciando da quanto costano i consigli e perché i più spreconi chi sono e perché. I consigli costano molto perché il costo totale è circa un miliardo di euro, che per fare un paragone è quanto costa la Camera dei Deputati, e comunque la Camera costa comunque molto. Costano molto perché, appunto, come hai detto tu, ci sono delle grandi differenze tra consiglio e consiglio. I consiglieri sono molti rispetto a quanti servono, perché poi dalla riforma del titolo quinto il Consiglio è stato svuotato dell'importanza. Ormai in Regione chi conta è il Presidente, che viene eletto direttamente, quindi ha un mandato diretto, nomina gli assessori, il più delle volte li nomina fuori dal Consiglio, e questo è, a parte un costo ulteriore, ma è un passaggio anche, come dire, che dal punto di vista della legittimità democratica lascia anche un po' a desiderare, perché alla fine la maggior parte delle regioni si trovano ad essere amministrate da assessori che non sono passati dal vaglio elettorale. Tutte le grandi regioni hanno l'assessore alla sanità che non è un consigliere, quindi insomma il 75% del budget della regione è amministrato da un signore che i cittadini non conoscono o non hanno potuto scegliere. Costano molto, quindi sono molti i consiglieri regionali, e sono molte le strutture che all'interno di quello che a fianco di quello che viene considerato, che viene chiamato il consiglio regionale, sono così delle sovrastrutture. Il garante per i diritti dell'infanzia, il garante per i diritti dei detenuti, il difensore civico, tutte cose che non servono, non dico niente, però insomma quasi a niente. Ci sono delle regioni che le hanno addirittura abolite, il Friuli ha abolito il difensore civico in un sussulto di coscienza, però sono tutte strutture che costano 250.000-300.000 euro all'anno in ogni regione, e vengono usate, come spesso anche i consigli regionali, per allocare questa grande ramificazione del potere locale, che è la casta invisibile del potere locale. Questo è il grande vulnus del sistema, perché alla fine le regioni, i consigli regionali, tutte queste strutture che ci sono a fianco, le mille nomine nei CDA, nelle partecipate, spesso inutili, vengono usate per così finanziare questa grande massa di amministratori che si trovano lì a metà del guado, non sono più, hanno varcato i confini della città, non sono riusciti a sfondare a livello nazionale, hanno magari fatto il sindaco da una parte, l'assessore da un'altra, hanno famiglia, devono campare, allora si trova il modo per trovargli uno stipendio nominandoli difensore civico da una parte, consigliere del Presidente da un'altra, consigliere diplomatico del Presidente. Tu pensa che ci sono 5 regioni che hanno il consigliere diplomatico del Presidente, cioè parliamo di cose che costano 150.000-200.000 euro all'anno a testa. Ora spiegatemi a che cosa serve il consigliere diplomatico del Presidente della Regione, insomma stiamo parlando veramente di cose assurde. Sono cose che costano, io l'ho spiegato nel libro, che questa è una sorta di maxi rata, di seconda maxi rata del finanziamento pubblico ai partiti, perché i partiti hanno le strutture centrali che passano attraverso i finanziamenti diretti, la Camera dei Deputati, i rimborsi, poi hanno tutta una classe locale ramificata, territoriale, vastissima, che attraverso i comuni non hanno soldi per farli finire ai partiti, e serve invece la regione nelle sue mille ramificazioni. Allora, consigli regionali, CDA, negli esempi, sempre fermandoci un secondo sui consigli, prego. Gli esempi del capitolo, tra gli esempi negativi, diciamo così, ne fai in particolare tra gli altri due, uno sui comandati della regione Campania, e torneremo più avanti tra poco con l'ex generale della Guardia di Finanza, che è l'assessore al bilancio della Regione Campania, che ieri ha fatto sussultare tutti perché ha detto: noi abbiamo solo 20 milioni in cassa, quindi qui è finita la cosa. Eppure ancora pochi, alla fine dell'anno scorso il Consiglio regionale campano ha assunto altri 130 lavoratori comandati rispetto alle centinaia e centinaia che già aveva. E poi parli della Regione Sicilia, in cui si vota tra poco, tra un paio di mesi, e pensate che il solo costo della pomposamente denominata Assemblea Regionale Siciliana, Parlamento Siciliano, in nome di questa autonomia che a mio giudizio è stato un sbergo solo per moltiplicare clientelismo e sprechi, E ricordo a tutti che noi siamo in attesa di capire se la Regione Sicilia è a tutti gli effetti fallita oppure no, a seconda di come si contabilizzano i suoi impegni di credito, perché quelli con il governo e quelli con l'Unione Europea, il governo dice questo ci consente di non essere in fallimento, ma tecnicamente ancora non si è capito. Eppure l'Assemblea Regionale Siciliana dice da sola costa 175 milioni l'anno, cioè pari alla somma delle assemblee regionali di Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Liguria, Marche e Friuli tutte insieme. Io ho cercato, quando mi sono messo a fare il libro, mi sono dato un input che era di non fare un libro contro la Sicilia, solo sulla Sicilia, la Campania e la Calabria, perché voglio dire, non solo era alla fine sparare sulla Croce Rossa, però in qualche modo, come dire, non sono i soli mari dell'Italia, tant'è che se vai a vedere il maggior numero di auto blu ce l'ha la Valle d'Aosta, il maggior numero di gruppi in consiglio regionale ce l'ha il Lazio, il maggior numero, il rapporto più sfavorevole ai cittadini dipendenti è sempre della Valle d'Aosta, quindi insomma, in ogni caso la Sicilia e la Campania spesso offrono degli esempi a volte anche divertenti, perché poi i siciliani sono anche divertenti quando fanno le cose. Il costo dell'assemblea siciliana è altissimo, perché come dicevi te è la somma di una serie di Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Liguria, Marche e Friuli. Ci sono poi delle cose divertentissime nel bilancio dell'ARS, che ricordo è quella più antica perché esiste dal dopoguerra, quindi anche dei costi che a volte sono un po' più carichi, perché ad esempio loro hanno un numero molto maggiore di vitalizi perché esistono da prima, ma insomma al di là di questo, no? Porto l'esempio dei soldi spesi per la commemorazione di Mattarella, ecco, fino anche quest'anno si spendono 100.000 euro all'anno, 100.000 euro all'anno e anche l'anno prossimo per commemorare Piersanti Mattarella, ora 100.000 euro all'anno per commemorare Mattarella, non so, voglio dire, 80.000 euro all'anno per le celebrazioni dell'anniversario della prima seduta dell'Assemblea Siciliana, ma insomma anche questo non si capisce come mai tutti questi soldi, fino all'anno scorso l'hanno tolto perché anche qui per un sussulto di coscienza o per le grandi inchieste che si stanno facendo su queste cose, l'Assemblea Siciliana pagava soldi per l'aggiornamento culturale addirittura degli ex consiglieri, quindi insomma, e per i corsi di lingua, non solo i consiglieri ma anche gli ex, si danno soldi per il cerimoniale, 750.000 euro all'anno per il cerimoniale, 342.000 euro all'anno per il presidente, per il cerimoniale del presidente, cioè tutte cose che alla fine uno non capisce come possa esistere, una poi alla fine vede il debito della Sicilia e in qualche modo si rende conto. Stessa cosa la Campania, tu facevi cenno ai comandati, sono tutti quei lavoratori che vengono assunti e poi lavorano per i gruppi, ma anche qui il presidente dell'assemblea campana mi sembra ha 11 addetti, ora 11 addetti insomma è una roba che 11 segretari, ecco, è una cosa che insomma non capisco che cosa possano fare questi qui tutto il giorno, insomma comunque ecco i guai, le cose più divertenti sono lì, però i guai non sono solo lì, no, come certo, ti dicevo certo. Il maggior numero delle auto blu ce l'ha la Valle d'Aosta, sono andiamo, 157 andiamo a un'altra questione, secondo capitolo e tu analizzi una delle tante riforme fallite, perché questo è il tentativo del governo Brusconi in limine mortis, per così dire, giugno dell'anno scorso, in un decreto Tremonti e Calderoli tentano di tagliare i posti pubblici, addirittura annunciano dicendo ci saranno 54.000 poltrone in meno, cioè la razionalizzazione, diciamo così, del rapporto tra cittadini ed eletti a tutti i livelli locali. Perché la condizione nelle regioni, lo ricordo a tutti, e tu metti i dati, che noi abbiamo consiglieri eletti in rapporto, in Lombardia sono un consigliere eletto alla regione per 122.000 abitanti, in Valle d'Aosta per 3.000, in Umbria per 29.000, in Veneto per 81.000, in Abruzzo per 29.000, in Friuli Venezia Giulia uno ogni 21.000, cioè siamo praticamente un patchwork. E tu documenti come questa riforma non sia andata da nessuna parte, perché naturalmente le regioni sono insorte e quindi i tagli previsti non se ne parla. Le regioni sono insorte in quell'occasione e in tante altre occasioni, perché loro costituzionalmente hanno hanno la possibilità di organizzarsi al loro interno in modo autonomo, questa è la Costituzione che lo spiega, e le regioni a statuto speciale ancora di più, tant'è che quando ora si è trattato di tagliare le province ci sono alcune regioni a statuto speciale, non tutte hanno lo stesso grado di autonomia, però quelle che hanno un'autonomia rafforzata, lo Stato non è potuto andare nemmeno lì a guardare quante sono le province, perché sono assolutamente autonome. Questo è un altro capitolo del libro, se vuoi poi l'affrontiamo, delle regioni autonome. In ogni caso vi ricordo che questa riforma, che secondo me era giusta, avrebbe consentito, per esempio, per una regione a statuto speciale, in cui non a caso poi i cittadini di fronte all'iniziativa referendaria hanno votato per l'abolizione delle troppe province, cioè la Sardegna, di passare da 80 consigli regionali attuali a 30, per la Puglia da 70 a 50, per il Molise da 30 a 20, cioè in realtà si sarebbe trattato di passare dal totale attuale di 1113 consigli regionali a 780, insomma 333 in meno. Che sì, non sì, le regioni si sono rivolte, hanno minacciato di rivolgersi alla Corte Costituzionale, è bastato questa minaccia perché obiettivamente dal punto di vista sostanziale la riforma di Tremonti Calderoli era sacrosanta, dal punto di vista per tabulas, dal punto di vista della Costituzione era velleitaria, perché obiettivamente la Costituzione è molto chiara, le regioni sono autonome nel decidere queste cose. Io penso che fosse più che altro una provocazione quella di Tremonti, sapeva benissimo che non sarebbe potuto andare avanti, lui ha voluto dimostrare, ecco, qui ci sono gli sprechi, vi faccio vedere dove sono e loro, se faranno ricorso, in qualche modo dimostreranno a tutti che comunque ecco, la responsabilità è la loro, quindi dal punto di vista sostanziale era giusta, però poi le regioni non c'è stato nemmeno bisogno che la Corte si pronunciasse, perché arrivasse alla Corte Costituzionale il ricorso, era talmente evidente che non poteva andare avanti la riforma che è finita lì, poi è finito anche il governo Tremonti, quindi insomma. E si è aggiunto adesso anche l'assessore al bilancio della Regione Campania, Gaetano Giancane, per chi non lo ricordasse, è ex generale della Guardia di Finanza, che nella giunta guidata dal presidente Caldoro in Campania ha assunto questo complicatissimo incarico di avere la responsabilità al bilancio della Regione Campania. Quando qualche mese dopo averlo assunto, rilasciava interviste del tipo di questa che ho in mano, che questa è del luglio di 2 anni fa. Il titolo di questa intervista al Mattino era «Serve un santo per risanare i conti e come dopo la guerra mondiale», e ricordava come, a fronte di limiti precisi posti dal patto di stabilità, di tetti invalicabili per la spesa e per gli impegni, nel solo 2009, a fronte di una capacità di spesa per la Campania pari a 3,5 miliardi, la Regione aveva assunto invece impegni per 4,7 miliardi. Questi giorni l'assessore Giancane ci ha fatto fare un altro balzo sulla sedia, perché ha dichiarato che in cassa la Regione Campania ha solo 20 milioni e quindi voi capite bene che rispetto a un bilancio di quelle proporzioni di miliardi, avere 20 milioni in cassa significa praticamente avere poco più che nulla. Allora, buongiorno e grazie all'assessore Giancane. Buongiorno. Questa condizione dei 20 milioni in cassa che ha fatto sobbalzare e arroventare la polemica politica nella sua regione è un monito rivolto a chi e per dire che cosa, assessore? Bene, vede, io credo che questo abbia bisogno di una precisazione, che in cassa intanto ci siano 20 milioni o ci sia un milione, credo che sia poco significativo, mi spiego meglio. La regione Campania, come altre tante regioni, hanno ovviamente dei debiti da pagare di continuo, dunque è notorio che noi abbiamo dei debiti nei confronti di fornitori, di comuni ed altri, dunque quei 20 milioni nel momento in cui arrivano i decreti di liquidazione e vengono emessi gli ordinativi possono essere pagati anche il giorno dopo e dire per esempio che c'è zero in cassa, è una continua gestione di entrate e di uscite. Quella era solo, in un certo senso, la premessa che poi è diventato il punto fondamentale nel dibattito politico, per dire ci sono delle anticipazioni che sono regolarmente date per cercare di mandare avanti determinati settori, come era il caso della lettera dove c'era l'anticipazione all'Astir e come c'era l'anticipazione ai trasporti. e sollecitando i colleghi a dire: guardate, vediamo un pochino di sollecitare Roma nel caso dei trasporti. Ed infatti nel frattempo è stato emesso il decreto del Presidente del Consiglio che ha assegnato quelle somme, e dunque adesso si procederà alla regolarizzazione contabile, perché queste vengono appoggiate su conti transitori. Adesso con l'assegnazione del Presidente del Consiglio, con il decreto del Presidente del Consiglio, si potranno praticamente rifare queste sistemazioni contabili e rientrare queste somme di circa 25 milioni, 23 e mezzo per l'esattezza, che sono servite e che sono state giustamente anticipate nella prospettiva che stavano per arrivare queste somme. Senta, quanto riguarda l'Astri, le volevo precisare l'altro punto solo della lettera, mi permetta, e ovviamente quelli, se essendo lavori fatti in base ai fondi strutturali su progetti, è evidente che vengono anticipate quelle somme, ma poi devono rientrare attraverso una rendicontazione che io ho sollecitato, perché ovviamente è un po' anche il mio compito, il mio mestiere. Dunque nella lettera è tutto regolare per quello che mi riguarda. Senta, quando lei ha assunto l'incarico si trovava ad avere la responsabilità di una regione in cui la Corte dei Conti diceva che, sommando tutte le partite dell'indebitamento, a cominciare da quello corposissimo sanitario, poi contributi sui mutui ai comuni, eccetera, eccetera, era una regione che aveva un indebitamento praticamente nell'ordine degli 11 miliardi e rotti. Questo era il giudizio della Corte dei Conti. Sì. Allora, rispetto a questa mole di debito spaventosa, lei che cosa è riuscito a fare? Allora, intanto fino al 2009 compreso, diciamo che dal 1999, dal 2000 fino al 2009, in quei 10 anni si sono accumulati circa 10 miliardi di debito, 7-8 miliardi, poi con quello che ha detto lei, con i contributi ai comuni eccetera, di altri 2 miliardi siamo arrivati pressoché a quella cifra. Dunque sono stati fatti 700-800 milioni di debito all'anno contraendo dei mutui. Che cosa è stato fatto? Intanto per il 2010 nel bilancio previsionale approvato prima che io arrivassi dal precedente Consiglio regionale era previsto ancora una volta un mutuo di 477 milioni che non è stato fatto e che si è ricorso ovviamente a dei tagli eccetera, ed è stata praticamente la manovra di novembre 2010. Poi non sono stati fatti ancora mutui né nel 2011 né nel 2012. Quindi il debito ha cessato di accrescersi. Ha cessato di accrescersi, ma non solo, ma per effetto delle quote di capitale pagate in questi 3 anni noi abbiamo restituito circa 1 miliardo. Parlo di quote capitali perché ovviamente le rate sono fatte anche di interessi e dunque è molto di più. Dunque allo Stato diciamo che il debito in termini di quota capitale si è ridotto di oltre 1 miliardo e non è stato affatto neanche un centesimo di ulteriore debito. Questa è la situazione debitoria in termini di debito strutturale. Il che naturalmente dà l'idea di quanta perseveranza nel tempo, lo dico a coloro che sottovalutano i problemi del risanamento italiano, occorre, perché se su un totale di 11, con l'impegno di questi anni, si è stoppata l'emissione di nuovo debito, naturalmente gli interessi si continuano a pagarlo sul precedente, ma si è ridotto l'ammontare di 1 erotti su un totale di 11, significa che bisogna continuare ad avere molta lena, le briglie strette per così dire rispetto al cavallo, e su questo i partiti, a giudicare da come le rispondono quando lei fa questi richiami, diciamo che non mi sembrano troppo consapevoli. Non voglio mettere in difficoltà lei, ovviamente l'assessore non può complicare i rapporti politici né con la maggioranza né con l'opposizione. No, del ma suo io avrei presidente. Una risposta anche per questo. Lo dica. I colleghi che hanno i trasporti, l'ambiente eccetera, le devo dire che hanno i loro problemi, perché ovviamente hanno degli impegni nel tempo che si sono trasformati in debiti, ci sono anche delle società partecipate, ci sono delle situazioni che non possono essere azzerate dall'oggi in domani. Dunque i problemi ce l'hanno anche i colleghi sicuramente. È evidente che la Giunta nel suo complesso poi deve fare quei piccoli passi avanti man mano, che poi tanto piccoli non sono, per portare al risanamento. Io credo che la Regione Campania, nell'esempio dell'indebitamento, ma gliene potrei fare altri, noi avevamo somme accantonate che sfioravano per pignoramenti circa 500 milioni. È stata una cosa ardua, ancora una battaglia che continua, e questi, le devo dire, giornaliera di cassa di ieri, si sono ridotti a 219 milioni. Il 5 settembre Ecco, cioè successivamente a quella lettera che del 31 agosto, ad esempio, il nostro tesoriere ci ha sbloccato sulla base di questa persistente opera che è veramente è una cosa defaticante, ecco, si rileva che le somme accantonate per pignoramenti diminuiscono di 31.505.627,60. Questo è un ulteriore praticamente rastrellamento di somme accantonate che a mio parere non avevano ormai il presupposto per continuare a restare lì, praticamente sono soprattutto i residui che restano dopo aver pagato l'ordinanza di assegnazione. Sono tutte queste situazioni che riescono a risanare la regione. Io è quello che insisto, questi 31 milioni aggiunti ai 20 che dice lei, ai 25 del decreto del Presidente del Consiglio che ha emanato l'altro giorno. No, è chiarissimo, è un'opera certosina, bisogna trovare È un'opera certosina, però sa, quando parliamo di 20 milioni di qua, 30 certo, eccetera, certo. Alla fine noi ci accorgiamo che nel giro di un mese raccogliamo 200 milioni come se nulla fosse. Buttali via. Senza spendere, e poi spendendo questi laddove ovviamente... Faccio una domanda, perché in Campania sì. C'è lei che è un ex generale della Guardia di Finanza, assessore al bilancio, sì. Poi alla ASL più importante della regione c'è un ex generale dei Carabinieri. Abbiamo visto prima come il tentativo, ovviamente stante le competenze costituzionali delle regioni, il nuovo titolo quinto e tutti i conflitti di attribuzioni, se lo Stato tenta di intervenire in misura di risanamento in maniera coattiva, ovviamente si finisce davanti alla Corte. Però la domanda che le faccio, ricorrere a ex ufficiali specializzati, come nel caso suo, è una specie di, forse per le vie brevi, una garanzia di serietà? Cioè, come dire, forse è più probabile che gli uomini dei partiti, di fronte a uno che ha indossato la divisa, e lo ha fatto anche in quella regione, negli incarichi che ha ricoperto, sono più in difficoltà poi a darle torto e a darle addosso, oppure no, è un'illusione la mia? Beh no, io mi illudo di avere la stima innanzitutto del Presidente Caldoro, se no non starei qui, di avere la stima, anche se i giornali hanno voluto enfatizzare come se ci fosse un contrasto, dei colleghi in primis dell'assessore trasporti, del quale ne condivido tutte le sue problematiche, e dell'assessore all'ambiente, che sono due punti, due problematiche direi che insieme alla sanità sono le problematiche di base. Questo ovviamente non significa che come dire incutere timore o altro, no, bisogna praticamente guadagnarsi il rispetto. Poi sulla sanità, che ovviamente quello, come sapete, è commissario il Presidente Caldoro, lo sapete che da un deficit storico che partiva fino a 3-4 anni fa di 700-800 milioni all'anno di deficit, quest'anno praticamente si è rientrati ormai, nel 2012 c'è l'uscita dal piano di rientro sanitario, cioè significa che praticamente quest'anno la sanità non sarà in deficit. E diciamo anche che certo. Diciamo che la sanità, stante il fatto che pesa per quasi il 75% su quel totale dei 175 miliardi di spesa delle regioni, è il comparto in cui Stato e Regioni, per fortuna, sono state un po' obbligate a mettersi d'accordo sulle procedure di rientro coatto, sui commissariamenti e così via. E i risultati un pochino si iniziano a vedere. Allora io ringrazio intanto l'assessore Gaetano Giancane, torno da Pier Francesco De Robertis, perché avevamo promesso ai nostri ascoltatori di occuparci del tema dei soldi nelle tasche dei consigli assessori, e la graduatoria che tu pubblichi nel libro, devo ammettere, è molto utile, perché consente a tutti, regione per regione, per capire che sommando l'indennità mensile netta e il rimborso spese minimo e massimo, noi abbiamo regioni come per esempio le Marche, o come per esempio la Toscana. In Toscana, sommando le diverse voci, al mese i signori consiglieri si portano a casa tra i 7.300 e i 7.500 euro al mese. Questo in Toscana, nelle Marche più o meno è la stessa cosa, in Emilia-Romagna è la stessa cosa, siamo intorno a 7.700 euro. Poi ci sono regioni come la Sicilia, tanto per cambiare, in cui i consiglieri portano a casa il doppio, tra 14.134 euro e 14.192. A essere sopra i 10.000 euro in abbondanza c'è anche la Puglia, che sta da un minimo di 12.745 a un massimo di 14.595 euro. C'è la Lombardia, che va da 11.000 a 14.000. La Valle d'Aosta si ferma intorno ai 10.000, il Veneto è sotto i 10.000. Com'è possibile che ci siano divari nell'ambito del 100% tra 7.000 e 14.000 euro. Pier Francesco. Le regioni, come dicevamo, sono in questo assolutamente autonome nel determinare sia i guadagni dei consiglieri sia quelli dei presidenti, e quindi in qualche modo fanno un po' come vogliono. C'era una legge che all'inizio prescriveva che il guadagno del consigliere regionale fosse del 65% o paragonato per il 65% a quello del parlamentare, però poi ognuna, in virtù di quella autonomia regionale, ognuna fa un po' come vuole. Stessa cosa, appunto, come dicevo, per i guadagni dei presidenti. Ce ne sono alcuni che guadagnano, come Rani, poveretto, guadagna 7.700 euro come rimborso, con il rimborso massimo. Ce ne sono altre, come la Sicilia, che guadagna, Lombardo guadagna ancora 14.000, o Formigoni, anche lì siamo sui 12-13.000. Peraltro, secondo me, per non fare del qualunquismo così d'accatto, che un presidente della regione Lombardia guadagni 12-13 mila euro, secondo me non è nemmeno una cosa scandalosa. La Lombardia è un'azienda che fattura 17 miliardi di euro all'anno, ci sono delle cariche pubbliche che il capo della polizia guadagna 600 mila euro all'anno, quindi se guadagna 600 mila euro all'anno il capo della polizia, ne può guadagnare 12.000 al mese Formigoni. Non è la cosa scandalosa. La cosa scandalosa sono i divari tra l'uno e l'altro, sono i guadagni dei consiglieri, che hanno responsabilità infinitamente minori di quelle di un presidente di regione, sono i guadagni di tutti la miriade di posti che sono all'interno della regione intorno al consiglio, il difensore civico, come ti dicevo, il garante per i detenuti, e le mille prebende di quelli che stanno nel CDA di aziende che... Allora, ti devo un secondo fermare, senza parlare poi dei vitalizi. Pensate che ancora nella regione Lazio il vitalizio, cioè quello che ci si porta a casa dopo legislature, ancora adesso è fatto sul 100% dell'indennità più diaria, e l'età per l'assegno è 55 anni, ma si può anticipare a 50, alla faccia della riforma delle pensioni, ovviamente, per i poveri cristi, che naturalmente siamo noi, mica siamo loro. Qualche telefonata rapida agli ascoltatori. Giuseppe da Bologna, prego. Giuseppe, mi senti? Giuseppe? Sì, pronto? Sì, ecco. Mi sente? Buongiorno. Sì, siamo qua. Buongiorno. Ascolti, io come avevo già anticipato alla ragazza che mi ha risposto al telefono, io sono un imprenditore, vivo a Bologna e ho contatti sia con le regioni che con i comuni. Cioè, io lavoro in ambito ospedaliero, insomma, sono un fornitore di materiale ospedaliero. Io una cosa le posso dire, a parte che quando uno si reca negli uffici della regione o da qualche parte per chiedere spiegazioni, non si ottiene mai nulla, non si ottiene assolutamente nulla. E poi comunque non esiste, cioè la regione in sé per sé è una cosa che non esiste. Primo, non pagano mai. Secondo, nessuno riesce mai a dare informazioni che siano chiare, nette, o addirittura si parte in alcuni momenti, lei va in un ufficio della regione dove c'è la fila fuori dall'ufficio e non c'è nessuno all'interno, decide di andare al bar di fronte a prendere il caffè, lei entra dentro al bar, ci sono varie persone, quando ritorna si accorge che la persona che doveva essere lì era quella che era di fronte a lei al bar a prendere il caffè. Quindi diciamo, mi pare di capire, grazie Giuseppe, che il suo rapporto con gli uffici competenti della sua attività imprenditoriale di Emilia Romagna sia un po' negativo, per così dire. Guardate che abbiamo parlato solo dei primi capitoli, ma poi quelli che vanno avanti nel libro sono ancora più pesanti. Tanto per parlare in termini chiari, ci sono 200 miliardi fuori controllo nei conti dei bilanci regionali, sommando la differenza tra aumento delle spese in 10 anni più 21,5% delle regioni e aumento delle entrate più 17%. Quindi, sommando i debiti pregressi non dichiarati, quelli di cui ci siamo occupati solo come esempio a titolo di esempio della regione Campana, quindi questo è un enorme problema. Credere di mettere in piedi l'Italia dimenticando questo problema del bilancio regionale è sbagliato. Bene, oggi vi devo salutare e ringraziare per Francesco De Robertis, perché abbiamo la pubblicità e quindi finiamo minuti prima. A domani.